E ho capito che molti tendono a criticare quello che non riescono a diventare. E una gran percentuale di questi è sempre pronta a dirti che non dovevi sbagliare. Tutti questi anni passati scrivendo, passati pensando, passati questi anni chi divento. Per ora mi diverto, per ora mi diverto. Dove atterro? Non lo so. Le coordinate che tracciano il mio universo, sotto una nube densa mi ci perdo. Dici non vale la pena, ti chiamo tesoro. Litighiamo per un tesoro che è andato perso. Dai, la mia nave salpa, il mio treno parte. Siamo meta infrante in mezzo a tante altre. Posso essere un attore brillante, solo tu sai scrivere il mio copione a regola d'arte. Penso a com'è finita, penso a com'è iniziata. Abbiamo fatto parecchia strada, con gli occhi bendati e i cuori blindati, alla guida dei carri armati. Ora che siamo cresciuti, ma non siamo cambiati. Non mi saluti, siamo sconosciuti. Una bella fine è un ossimoro, la parola fine è triste. Respirare senza ossigeno. Dai, prova. Diventiamo una cosa sola, non importa cosa. Non torniamo a casa, urliamo a caso. Cazzo, io ti amo. Eppure non pensavo l'avrei scritto. Pensavo a guardare il soffitto e restare zitto. Finché stavo fatto perso, ne assumo e mi assumo il rischio. Baby, non è solo droga, come non è solo un disco. È gridare a Dio che esisto. Tu sei una stella caduta sulla terra che si è quasi spenta. Ma non l'avevo previsto. Penso a com'è finita, penso a com'è iniziata. Abbiamo fatto parecchia strada, con gli occhi bendati e i cuori blindati, alla guida dei carri armati. Ora che siamo cresciuti, ma non siamo cambiati. Non mi saluti, siamo sconosciuti. Un'ora, due ore, tre, non bastano mai quando stai con me. Un'ora, due ore, tre, non bastano mai quando stai con me. Un'ora, due ore, tre, non bastano mai quando stai con me. Un'ora, due ore, tre, non bastano mai quando stai con me.